capsula, ma non esce come questo. Oh, Gianni, ti voglio sentire di nuovo, fammi sentire il cover con l'MB più 5, ce l'hai al massimo? Ehi, adesso ho alzato anche, ho alzato il mic gain, guarda come va, perché ce l'avevo basso, non me ne ero accorto, dai. Gianni, adesso è un'altra guba, adesso sì, adesso sta pompando, adesso va bene. Ehi, me l'ho dimenticato perché avevo abbassato il mic gain perché fischiava, e adesso gli ho fatto un altro lavoretto. Adesso basta, con questo microfono ci ho lavorato troppo, gli ho cambiato il cavo, me l'ha cambiato Luca, vabbè, me l'ha cambiato lui. E poi gli ho cambiato la capsula, l'ho tutto quanto ripristinato dove c'era, dove era consumato, l'ho tutto quanto con uno stecchino e con la pittura, l'ho tutto quanto ripristinato e rifatto a nuovo. Allora basta, non li vivo più, apri il rampo. No, Gianni, no, che col copra stai andando benissimo quel microfono, va bene, lascialo stare abbinato se lo vuoi abbinare lì, non buttare niente, abbinano lì al copra che stai andando bene, l'altro saletta ce l'hai sul 3009, magari il Galaxy le metti un altro MB più 5, ti compro un altro più 5, ti procuro un altro più 5. Allora, adesso le posizioni sono queste, sul 3009 ho messo il Proxel, quello che ho lavorato io, e quello pompa forte, mi ha detto che stavo facendo un soldo, Riccardino. Poi diciamo che col Galaxy ha copiato quello e non lo voglio spostare, ci lascio il coso, come si chiama? Non mi viene il nome, vabbè, e qua ci metto le BB più 5, però le BB più 5 non c'ho posto per metterci le BB più 5, qua devo togliere un alimentatore e il coso, come si chiama, il baracchino, quello diciamo quello potente, dai, quello l'Alan 48. Vabbè, però gli abbinamenti sono giusti adesso, eh? Va bene, lascialo stare, questo qua su quello lì, il saletta sul Galaxy e il Proxel sul 3009, va benissimo alla grande, no, non ci sono problemi. Ok, dai, io mi allontano che devo mettere a posto un po' di roba, ci sentiamo dopo ragazzi, grazie dei controlli, a dopo. Ciao Claudia. Capivo perché stava a fischiare e ce l'ha portato in sinistra. Fatto. Comunque io ho già, qua gli ho aggiunto tre condensatori e ho fatto tre scatti di modulazione. Ma l'ho fatto anche nel 48. Ho fatto anche nella 48 e l'ho fatto. Qua ci stanno tre che te lo faccio sentire, guarda. Di nuovo bianco per me. Va bene, ragazzi. Allora, questo è un passaggio, primo condensatore da un tot. Adesso sposto, questo è il secondo passaggio, sempre aumentando un altro condensatore in più. Questo è il terzo condensatore, cambia qualcosa. Sì, nel terzo passaggio ti fa la modulazione. Non sei uscito? Non sei uscito, Gianni? Ho detto che ti fa la modulazione bella corposa del terzo passaggio. È positivo, dai, questo è il terzo passaggio, capito? L'ho fatto anche al 48. Può fare anche al 48 tu, l'ho fatto dentro, ma nella scheda gliel'ho fatto, capito? Non fa metterlo vicino che mi fischia questo cacchio di microfono, lo posso mettere a fianco, boh. Mi fischia, va, non ha male, va. Nel 48 ho tolto i watti e l'ho messo all'interno, l'ho regolato a 3 watti e ci ho aggiunto un altro pomello e mi regolo questa tonalità, invece fa la scatta e la faccio girando il pomello, capito già? Aggiungavido, un secondo solo, datemi che mi sto mettendo a posto la stazione, eh. Va bene, io ho tutto il mio sentito, il saldatore e tutto quanto, devo scendere giù a controllare con la macchina, mia sorella pure che mi ha chiesto. Dai, al limite entro più tardi, dai, già, ci sentiamo più tardi. Ehi a Gigi, dai, ci sentiamo più tardi, dai. Buona serata. Ehi, ciao. Hola. Antonio, Gino, se ascolti il doppio rum, cambio. Allora, controllo il radio. Dammi un controllo di radio, grazie. Questo è il tuo microfono, cazzo, che ho messo in un altro apparato, dai. L'ho messo in un altro apparato, come sta andando? Va bene, l'ho cambiato la capsula perché non serviva. Avanti Sardegna, la Calabria ti risponde. Buonasera Del Sentito, qui stazione di due, Città del Ferro, Porto Torres, Mar Sardegna, cambio. Positivo, dai, ho capito poco e niente che c'è uno splatto per 18, dai, non sono riuscito a capire il tuo nome, caro amico, dai. Comunque qua Mimmo in Gioia Tauro, Calabria, avanti per te di nuovo, così faccio girare gli amici qua. Buonasera Mimmo, rispetto, D2, Porto Torres, Sardegna, niente dai, sono amico mio, non ho capito niente, c'è troppo QRM, mi dispiace, ma gli amici pure non ti ascoltano, ok? Un salutone dalla Calabria, Sardegna mia, e ci sentiamo le prossime. Attenzione Calabria, ascolti Luca, Sassari, Nord Sardegna, avanti. Avanti Luca, da dove sei Luca? Scappa, salutoni Calabria, dai, da Sassari, Nord Sardegna, avanti. Positivo, buonasera a te Luca, qua Mimmo in Gioia Tauro, Calabria, Nord Sardegna, se non vado là, ferrato. Sì, Nord Sardegna, tuo segnale 9, Radio 5, avanti. Perfetto, dai, positivo, buon pomeriggio a te, ti rilancio qua l'amico Pasquale, comunque segnale 8, Radio 5, pure da parte via, da parte tua, avanti Pasquale. Positivo, dai, che adesso ti ascolto, salutone, dai, ben sentito, compagnia di tanti amici qua, dai, tanti amici, due ce ne sono, c'è Gianni Doppio Room e Eugenio da Porto Torres, avanti già. Ho detto che sono in compagnia di altri amici da Sassari, capito? Uno di Porto Torres e l'altro di Sassari, Gianni ci sei, Gianni non c'è, non so se mi avete copiato, avanti. Questo passaggio mi si è arrivato bassino, detto segnale 1, radio 3, la parte tua. Ok, ti ho copiato, accento Calabria, dai, salutone anche a voi allora, buon proseguo di serata, le prossime, dai, propaganda permettendo, ciao. Luca, arrivato te la parità? No, negativo. Questo è 3009, come sto uscendo? Col microfono fatto da me, dai. La bomba. Hola. Attenzione Gioia Tauro, se ascolti l'isola sarda che chiama, cambio. Chi è che chiama Luca, avanti? Positivo, non ho copiato il nominativo, avanti, ripeti. Cazzo già, perché mi parli sopra? Oia, questo è l'apparecchio tuo con il microfono fatto da me, guarda Eugenio, meglio va. Cosa? Luca, non capisco cosa dice, lo capisco. Oi, non c'ho posto a mettere quello. Attenzione Gioia Tauro, ci ascolti Luca qua dell'isola Sarda, cambio. Sì, chi è che chiama Luca? Avanti. Ciao Topolino Bianco, là, porta è chiaro qua nel nord di Sardegna, in quella di Sassari, avanti, buonasera. Attenzione, binario 10, sentite l'isola Sarda, gatta gatta. Ciao Eugenio, sono ritornato. Attenzione, grandi urlatori del binario 10, se sentite l'isola Sarda, cambia, cambia. Ciao Riccardino. Ehi, un attimo, stava parlando Eugenio. Cosa Eugenio? Ciao Eugenio, ho visto la tua moto, è un mostro. Eugenio, di Porto Torres. Casino, c'è. Beh, sono rientrato adesso e c'è la... se vado a traffico per non dire altro. Vabbè, già risolto hai con questo barracchino. Sono Luca Vie. Tutta frusci, sei là. Lo sono io e lui. Io sono Claudio. Attenzione Eugenio di Porto Torres, se tu ascolti Luca qua, non mi idea. Vabbè Claudio, cos'è? Quanto vai a sentire a frusci? Sento a frusci e Claudio, guarda. Anch'io sento che ha frusci, ma che apparato sta usando? Oh, boh, ne ha 50.000 a casa adesso, boh. Lo so che ne ha 50.000. Forse sta usando quello che hai detto prima, il drone. E che ne sei, boh. Ecco a voi Riccardino! Ma che avesse lui, sono fischi? Adesso no. Che cazzo l'ha presa detta la radio? La benonospera. Cosa? La benonospera. Ma il cazzo non so io. Stavo... Piede staccata c'era, male in mente. Ciao Claudio, comunque, di nuovo. Ciao Riccardo, buonasera. Oh Lu, guarda, mi ha detto stamattina che stavo arrivando sul 3. Perché adesso ti sto arrivando sul 3? Con questo sei sul più. Questo è un po' azzeccato, sul più sei adesso, su questo baracchino qua. Capoglia, poi stamattina stavo usando un baracchino piccolo, il Max sopra sul tetto, con forse 5-6 metri in cavola. E tu senti? E io ho portato le stazionarie, infatti un pezzo avanti non si era spostato niente, non si è spostato niente, le stazionarie sono a posto. Va bene, qua c'è propagazione. E un po'. Sembra Riccardi, brutte notizie ti ha dato Fabrizio? Sì, brutte. Ehi vabbè, tu stai sereno, fregati, vedrai che già mette a posto tutto là. Se no me ne prendo uno per conto mio. E infatti, e fai prima, mi. So che ne ho trovato un po' di 430 e anche altri. Ho trovato invece che aspettare, intanto me ne prendo uno per me. Allora, già va bene. Quando lo prendi poi mi chiami e lo sistemo. Lo mettiamo a posto, lo facciamo rullare. Perché come lo prendo, sono sicuro che non lo lascerò fuori, lo metterò dentro. Infatti, come ho detto ad altri, adesso sto prendendo la persona, se lo penso me ne voglio prendere una conto mio angolare, che mi va bene anche lunga. E così non ne lascio il capo fuori, perché ho paura che quello di non l'abbia rovinato sotto il raggio di garage. Non sono radio da lasciare fuori, no? Quelle sono radio da tenere ben custodite e soprattutto che non prendano umidità, capito? Lo so, infatti ho detto come arriva quello nuovo, sicuramente sarà già dentro, non lo lascio neanche un minuto fuori. Va bene. Avanti Lucaria, dai, continuate, guarda c'è, proprio io non intendo nulla, la preparazione non intendo i buchi. E io prima c'era da segnale 9, mi è arrivato. Prima, adesso no. Ehi, lo sai che lo spostamento dell'antenna ti ha fatto recuperare qualcosa anche a te? Ehi, già me l'ha detto stamattina. Sei un po' più alto, forse è più spostato verso la tua parte, Luca, sono questo. sto gava gava. Così ti io, dai, Natalino, a favore, non so se tu ascolti giù che quella. Ehi, a gava gava. Sopra, sta Natalino questo. Assuda la me che lo faccio rullare. Io prima ero più fissato, uso la macchina, ora non è passata niente la gana. Perché te ne è passata la voglia, già va bene. Ciao Natalino. Capito. Gli apparati sono fatti per questo, se me lo trovano qua mi arresta. Ehi Abbonato, perché te ne è passata la voglia Luca, ho detto ciao anche a Natalino. E adesso come dice una bella giornata, non mi sono attaccato da Valacchino in giro ieri da Porto Torres, adesso la prossima settimana ci assegniamo ad Alghero. Io a chilo birrette, a casa rimane giubilato, due birrette a Porto Torres da 33 e 7 euro, minchia. Ma 7 euro l'una? 7 euro tutte e due. Così è. C'è chi la fa 3, chi la fa 3,50 euro, la 33, così è. Cioè, cos'è la pazza? Barra oggi, conviene poco, io vi ascolto a casa. Sembro un ragazzino di 20 anni, 10 kg di magrito. Vabbè, siamo andati a mangiare un gelato, abbiamo fatto prima la fila per il gelato e poi andata a passeggiata al centro di Porto Torres, proprio la via principale, là, lì. E niente, tutto a posto, là. Fatto una passeggiata, poi siamo rientrati. Dove eravamo in campagna, ci siamo lavati e cambiati e siamo usciti. Ci siamo rientrati alle 8, alle 8, la 8 e 10 da casa. Ehi, ehi, ehi. Va bene, dai, io rimango in ascolto, ci sentiamo dopo che faccio due cosette qua, va bene, ciao a tutti. Ciao. Luca, quando è che me la porti quella capsula, ragazzi? Cava, e tu devi venire a terapia, non lo so capire io. Uso capire, io faccio una macchina in casino di Montebello, scusando la frase. Natalia, io sono capito, appena lo rifarò. Siamo rovinati. Appena... Vabbè, perché devo fare commissione, non mi conviene adesso spostarla la macchina. Perché ce l'ho anche lontano. Tanto devo fare delle commissioni. Vediamo più come fare per prendere questa... Il microfono è troppo piccolo, non riesco a mettere una capsula come si deve, giusto? Sono microfoni originali. Ma e poi la capsula vuole piatta, perché è anche piatto il microfono, è un qua. Ma il curatello. Allora fa. Ma poi tra le riprese non lo smetterò. Oh Lugarie, guarda il Royce col microfono normale, se c'è bene. Un po' così, che è forte la radio, ma è un po' nasina. Nasina, no? Vabbè, microfono del cazzo, microfono normale suo, dai. Però la modulazione c'è, va bene, è piena. Va bene, dai. Era giusto per capire se potevo usare anche il microfono normale. È una grande. Cava cava, vai Natalie, questo è il microfono normale del Royce, dai. Cava cava. L'importante è che si senta, dai, che si possa usare magari di notte così a fare due chiacchiere. Ma questo qui invece non gli puoi mettere neanche una capsula decente perché è piccolo il microfono. Ehi, adesso attacco l'MBP5 a Ruggia, dai. L'ho già regolato poco fa con Gigi e con Gianni, lo faccio sentire a Luca. Lo fai sentire anche a me. Ah, c'è anche lui cantino, me. Ora, questo è l'MBP5 con Royce. Forza la radio. Va bene, non lo vedi. Mia radio. Va bene, questo è quel microfono che avevo preso da Gigi, è modificato, c'è la capsula turbo. Riccardi, ti piace questa radio? Sì, è buona, già va bene, ottima radio. Ehi, va bene, questo è Royce con l'MB+5 da tavolo. Va bene, ripasso col K, adesso li ho fatti sentire tutti e spengo tutto, ciao. E Royce, Royce. Ehi, questo è Royce, il tuo amico. il mio. Eh sì, chi l'avevi dato tu? Roberto. Roberto l'ha dato a me. Strico l'avevi verniciato tu anche. Sì, sì, è nuovo, esce molto bene. E quello l'ha dato a te? Abbiamo fatto un cambio, là. Ah, ho capito. Nuova, nuova quella, lo sta pulita. Se lo metti su Maracchino, un carraggio, ma veramente, a volte gli è arrivato così. Tutto sporco e fatto, là. Ma tu scegli te ne uno. E poi, siccome a me non piaceva, prendeva a colpi, ho fatto il cambio con Roberto con il Typhoon. Ho lavato il Typhoon, lui gli ha lavato quello. Ma era nuovo, nuovo, Giulio, e Giulio aveva fatto i fianchetti. No, abbiamo fatto un cambio con un altro tipo di apparecchiatura che c'avevo io là. Va bene, già è qua comunque, ben custodito. KK KK del Roggero, avanti Riccardini. Io ho fatto lo spazio, ho abbassato un piano, qua ci sta. Chi è che chiama al binario 10? Avanti, cambio. Attenzione, la provincia di Catania, si ascolti in città di Sassari, nord Sardegna, avanti, buonasera, Gappa. Che casino. Sì, già, ma già ci sta anche qua, beh, ne ho ancora di spazio da mettere. Registrato, avanti il brecco. Importante, beh. Importante, dove? Sempre quella là. C'è assurdo. Ma mi copre? No, arriva la braghetta. Aio, dalle Mattana, io con Gianni, attaccate, dai, io sto facendo cose. Andate Mattana, centro, nord, sud d'Italia. Come vedi, attacca a me, tu copra, con un lineare, se no ci vede giù tutto. Attenzione, Sicilia, si ascolti Sardegna, gatta. Tra di loro, Ocla. Però cazzo, posso andare anche nel 45 a parlare tra di loro, che vanno nel canale 10, beh. Luca, voglio assillarti per l'ultima volta, perché mi devo prendere una decisione, va. Guarda questo microfono, come esce, memorizzalo che ti faccio sentire l'altro, vediamo un po' quale preferisci dei due. Ma si è attaccato, si è agganciato. Si è agganciato, vai, non me ne sono accorto. Ascolta, controlla questo, come esce, memorizzalo, adesso attacco l'altro. Vai. Attenzione Salvatore, se tu ascolti Luca nella città di Sassari, nord Sardegna, gappa. Cavagata. Non te lo prendo 747 Luca, te li ragganci di quando devi usare così la radio, Chi scelbe deggi tutto. E chi? Aspetta, prova già. Guarda, questo qui è l'altro, vediamo un po' quale c'è bene, meglio questo qui o quello che c'avevo prima. Ma tutti e due sono belli, questo è più, diciamo, più, come dire, più chiara, diciamo, là. L'altra rimane, però sono belle tutte e due, mi piacciono tutte e due. Cavagà, questa è forte la radio adesso, che ho fatto la caccia. Ha più acuti questa qua. Cosa? Ho detto che ha più acuti. Più vatti? Più acuti, cosa vatti? Meglio questa, grazie, cavagà. Ma lasciamo questa qua. Cosa dici? Lascio questa. Vabbè, dai, lasciamo questa qua. Questa qui è l'MB più 5 col 3009. Quello che c'ho io, quello che ho provato a camuffare io, là. E sta bene, sta bene, ma sei solo una quella di poco fa. Sono belle tutte e due, però questa già è più bella, là, più chiara. Cavagava, dai, allora l'altro lo metto giù, lo metto per il copra l'altro. Ma le BP5 le trovo sistemato io questa. Ma io l'ho cambiato la capsula, Luca, perché non andava bene quella capsula, l'ho cambiata. Cosa gli hai messo? Una del telefono? Boh, una verde ne avevo, non so se del telefono o di che cosa era, ce l'avevo nella scatola dove tengo tutti gli attrezzi, tutti i pezzi, l'ho trovata lì. Ma sempre di quella dimensione? Cosa? Sempre di quella dimensione? Sì, sempre piccola, avvolta nel cotone e via dicendo. A quanto ce li hai i tuni già? Già. Adesso sono al massimo i tuni. Mettili a 7. No, così a 7 Claudio, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lasciali così che è più bella. Ti toglie quel i medio bassi sono più belli, cioè più acuti, lasciala così a 7. Ascolta, parlando così da lontano, bene si sente? Sì, benissimo. E allora va bene, dai, mi posso pure bucare. Avevo fatto un'operazione, ho fatto lavoro per niente, dai. Ho alzato, ho smontato i cosi, i ripiani, gli apparecchi puliti, e volevo mettere questo qui a fianco al cobra, però fischiava, cazzo. Dopo che ho fatto il lavoro mi innescava, e allora ne giocava di tutti. E non hai visto cosa fai? Io per la prima volta stavo fischiando col 60, però non c'avevo il capo dell'antenna attaccato. No, io già ce l'avevo, ho controllato anche se avevo apparecchi accesi, non ne avevo, era, non so cosa sia successo, però fischiava a fianco, non faceva mettere. Con questo qui lo puoi mettere a fianco dove vuoi e non fischi. Già, vabbè, no, io non c'avevo l'antenna, c'avevo l'antenna di 10 metri, ma senza correttore era via 3 di stazionare, per quello stava fischiando. Ne sono accorto, non l'hai detto Luca, sono mai accorto Manero. A proposito di antenna, un altro lavoro in dibada, ho fatto tutto il cavo nell'antenna, PM, tutto quanto, con l'antenna che ho trovato, fondo scala di stazionarie. Dove sta il problema? Non ce l'ha lo stilo. Già, non ce l'ha sotto, dove ce l'ha molla, non puoi sollevare o abbassare. No, quella lì non è un'antenna della 27, te lo dico io, deve essere VHS. Io te l'ho giù detto, stai attento, perché le hanno fatte anche così, io ce l'avevo nella macchina, nella quella blu, ti ricordi Lu, nella Citroen, nella Saxo, sembrava la macchina della Guardia di Finanza, era VHF. Sì, chissà sì che sia vecchietta. Quella che c'avevo lì, c'avevo quella nera con la molla e quella senza molla. E poi mi era ingrancita coso, come si chiama? Per un certo modo, guarda tu capire. Ehi, mi ricordo, guarda si usciva bene l'antenna, cavolo. E vabbè, c'era anche l'aiutino sotto, era ancora di più. Sì, c'avevo 300 watt pieni io della macchina. In quella macchina c'era un impianto favoloso, io quando uscivo la scala di ciocca lì da Brescia iniziava a chiamare Billo Gigi, mi sentiva nella piana di Campera, e quando iniziava a chiamare tutti mi chiamavano: Gigi dove sei? No, sono Gigi, sono Claudio Spagliero in barra mobile. E quando uscivo da Perfora da lavoro arrivavo fino a Sassari, mi sentivate tutti. Quindi va bene, KK Roggero. Oggi li ho fatti girare tutti, dai. Uff, sono stressato, ho già fatto troppi cosi, da voi di basta, vabbè, lasciamo per. Pensavo che qualcuno andasse bene, invece sono sfigato, cazzo, l'antenna non andava. Dopo ho abbassato i ripiani per darmi il ruscio, tu invece non me ne puoi dare. Che cavolo volevo dire? Allora, è arrivato il pacco oggi già. Quando ci mette il rimborso, lo sai, sai qualcosa? Non ho capito lui. Allora, ho fatto un rimborso di una macchinetta, una cosa che c'è per cani, no? Perché gli ho detto non andava bene, si riscaldava, non tagliava bene. E è arrivata oggi, dal 19, che è partita. E il rimborso, molto tempo ci mette ad arrivare. Non te lo so dire, non ho mai fatto di queste cose, Manuela le ha fatte, ma io no, Manuela già le ha rispedite su Amazon, qualche cosa che non andava bene le ha rispedite indietro, però non so quanto ci metta la verità. Allora, ti ho mandato un messaggio, aspettiamo che mi risponda. Dunque, baracchino è SDA, spedizioni. Dovrebbe essere ancora a Torino. Allora, richiesta di ritiro e presa in carico in transito. Allora, vediamo un po'. Sì, allora, 23/5/2020 alle 4 del mattino era nel centro operativo di Bologna. Oggi quanto ne abbiamo? Oggi è 25, dovrebbe arrivare domani. Dovrebbe, non lo so. E domani è giù da rigare la macchina, via. Stai tagliando? No, No, devo fare tagliando, perché malgrado non abbia fatto i chilometri, sono passati 2 anni e dovevo fare lo stesso. Però c'è l'olio nuovo, nuovo, nuovo, un peccato che te l'hanno fatto i subito. Quindi? La devo portare anche per quel difetto là che faceva con i chilometri. La devo portare perché è finita la garanzia e hanno praticamente prorogato fino a giugno per la del coronavirus, sono stato fortunato, me lo fanno in garanzia. Ah, sei fortunato, va bene. E mi ha detto che ci vuole anche il tagliando perché sono passati 2 anni, malgrado io non abbia fatto i chilometri, perché loro la prima volta mi hanno cambiato l'olio gratis, poi mi hanno ricoverato e non l'ho più usato, ma che da più di chilometri non ha giubato, di solito è sempre nuovo. Se non recupero, ma è il trucco di Don Arrento, e si deve di su bar, quindi andiamo a fare che concessione, che... ma come si chiama? In questi centri autorizzati, da Santa Maria non l'hanno preso in giro, ma nel maggio 2000 va sistemare la macchina, invece ho trovato un amico che l'ha sistemata bene, veramente ha speso 650 euro, compreso il cambio olio e tutto. Praticamente facevo un rumore strano, non si sono accorti alla Ford che mancava l'olio nel cambio, allucinante. Ecco perché non entravano le marce, io te l'avevo detto, lo sarà l'olio o no? Ho detto no, no, deve essere roba di ingranaggio. E in più c'era questo coso di saldato sotto, comunque l'ha messo a posto, è un buon bo' adesso. Prima grattava spesso e volentieri la retromarcia, adesso non gratta più, l'ho usata ieri a Puglia, perfetta. E parlo se gentile, sono sempre un bestia. A colpi così vanno, oramai vai a fare il tagliando paghi 350 euro. Vabbè, ha fatto la frizione già, ha fatto cambio olio, filo, tutto, poi gli ha messo l'olio nel cambio, cioè gli ha messo la macchina a posto, infatti ha saltavano le marce, non trovano più le marce, una volta che, non trovano più, infatti Giulia l'ha detto che da aprire il cambio, tu pensa che il cambio comunque sia, lo dovevano aprire perché secondo loro era quello, e solo per aprire il cambio volevano 350 euro, bella che ladrimi, infatti stavo aspettando che mi chiamano, perché c'hanno il mio numero, quando ti chiamano per controllare la macchina, no? Mi dicono tu 4. Infatti, ma guarda, manco a darli soddisfazione, oramai fatta è, cosa ti ne affitti? Intanto sono furbi, infatti io sono a corsa a portarla a Franco, dove la porto sempre la macchina a farlo pagare all'italiano, e gli dico di non fare l'italiano, di fare solo quell'affare perché ha avuto spese, dico così. Non conviene già portarla da loro, non conviene, paghi un bel. Allora, la Ford vuole 50 euro a ora. Ehi, ce lo so che sono così, sono prezzi di merda. Vabbè, dai, fai girare che vado a mettere a posto gli attrezzi che stavo smontando tutto qua, adesso qui scende di gabbo. Oramai lascio così, la posizione è questa, e il microfono si mette dentro. Là. Purtroppo non ho posto per il microfono MB+5, mi stavo facendo lo spazio, però poi fischia e non fa... Deve essere troppo potente adesso, ma forte si sente oppure debole come modulazione? Sento forte, abbastanza forte. Non so, che differenza c'è tra la mia e quella di Gianni, Natale? Claudio, ci sei? Non si pronuncia. Ho visto questa qua la differenza, se spinge più il tuo o il mio più alto, non so. Il tuo c'ha doppio modulatore, per forza ragazzi che spinge di più. L'aveva fatto Adriano, quello lì mi pare che fosse quello che aveva Natalino, tu l'hai ricambiato solo la carcassa mi pare, che era vecchia, là. Però mi pare che quello lì ce l'aveva Natalino, l'aveva fatto Adriano, se non erro, devo andare a vivere Natalino, mi io ho molta memoria. Ti parlo di 30 anni fa, mi. Comunque doppio modulatore non c'entra un cazzo. Quella di Gianni è più chiara e quella di Luca è gracchiante in confronto a quella di Gianni. E Raucan? Perché è troppo forte, forse, lui la mette troppo forte, se la regola magari. Prova a abbassare il volume, Luca. No, adesso è 1,5. Prova. Chi chiama? Comunque è più chiara così. Ha presente gli avuti. Lui è quando alza, allora diventa così. perché è fatta per modulare così quella di Lucca. Un po' di voi che pare che sia Rutelli quando va a vista, quando c'ha l'elicottero. Perché beve un di birra Lucca e Rutta sempre? Adesso come l'hai ricordato, ma vabbè, va. Mangio qualcosina, faccio merenda. Faccia così. Il microfono è sulla terra. Questo qui è Gianni Bairucca, il microfono. È elaborato. Fai così. Perché Luca ci ha mandato il cavo, io oggi ci ho mandato la capsula e abbiamo elaborato tutti e due. Non se non ripuoi fare nulla, anche la struttura del microfono proprio. E addirittura c'ho una capsula io, che è del K, per il microfono da palmo. Però cazzo, ma lo posso punire qui dentro perché è troppo male. Ehi, un attimo, lasciami che vado a conservare tutti questi attrezzi che c'è in mezzo alle palle, vado a bere anche un po' d'acqua, dai. Ah, il pacco è arrivato, mi hai mandato la foto, ecco. Adesso lo aprono, controllano, poi se vuoi ti dica. E però sono gentili, o ti rispondo così di botto, subito, no, ti fanno aspettare ore e ore. Tu mi fai il rimborso. Luca, domani mattina c'è il rimborso. Ehi, hai compreso? Rimborso di cosa, attore? Il rimborso della roba che ha rispedito indietro. Lo controllo e domani mattina gli fanno il rimborso. Ma solo che ha cambiato canale. Una dirighetta, anda e torna. Sì, è andato a mangiare, è andato. Mi ha già finito di punire a pulce i nomi, manco mari, mi ha già cavato un po' di roba, di mondezza. Anda bene. Oh, io già che andemmo, ve andemmo. Vabbè, tutti i vortici. Cicu, cicu, cicu, canale 10, cambio. Sono qua. E io sono qua, fa beta. Siccome hanno suonato poco fa, e allora sono andato a vedere chi era. E chi era, qualche bella donna? Magari. Una signora di 94 anni. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, dipartimento 165, fa chiamata e si sintonizza in ascolto, break over. Thank you. cazzo che non è io. Sei una carica di tallo. Vogliamo che voglia trovare un cafelito, con un cazzo di coscio che hai. Non so che microfono è, non so che capsula è. Quello omologato è. E il microfono è quello normale. Abbonza lo spagnolo. Allora, andrebbe benino. Cioè lì più di tanto non puoi fare, lo sai, no? Quindi tieni quella che va abbastanza bene. Rispetto all'originale è già un abisso. Claudio, come ti sembra? Rispetto all'originale è molto meglio. Eia, quindi sei approdato l'apparecchio, hai regolato la spirale, dai. Eia, tu praticamente volevi raggiungere 1 sta a 1, cioè non 1 e 1, 1,1, 1 sta a 1. Proprio il centrobanda assoluto, perfetto, ideale, magari averlo. Io l'ho raggiunto purtroppo, forse con un po' di culo. Al canale 1, al canale 50 c'ho sempre 1 sta a 1, non cambia niente. Cioè la lancetta non si muove, se non si muove vuol dire che hai beccato proprio là. Perfetto, meglio non si può fare, perché c'è un punto di risonanza massima, ovviamente poi più vai verso i 28-29 si alzano, più vai su 24-25 si alzano, ma hai beccato il centro banda. Ascolta, il centro banda dove l'hai messo, sul 20 oppure? Guarda, non ho guardato niente, ero, mi pare sul 10 ho tarato, poi mi sono saltato sul 20, capito? Ma non l'ho fatta a 7 cm, non fa, a 7 cm non lo troverai mai, devi scendere intorno ai 6 e qualcosa, intorno a 6 scarso, come misura, da un punto all'altro, 6 scarso, forse anche meno di 6, sono riuscito a tararla proprio così, guarda, con la figlia 130, 1, rapporto a 1, su tutti i canali. E teatro micro, video. Dili qualcosa al suo spagnolo, sta anche ruttando. Abba. Ehi, gioia. Vabbè. Però ho perso qualche punticino, dove l'ho messo adesso, ho perso qualche punticino, ma non me ne frega niente. Almeno dalla mia parte non devo dare spiegazione a nessuno, dai. No, dipende, magari da qualcuno hai perso qualche dB, un dB, non Santiago, un dB, cioè, vabbè, già hai capito. E magari da qualcuno l'hai guadagnato, però dipende molto. Va bene, Luca, sei rientrato. Hai perso qualche cosettina, leggera, ma l'hai perso. Eri 30 pieno, adesso non sei più 30 pieno. Un pelino meno, ma proprio un pelino, 29, 28. Sì, sono rientrato, ma stavo concludendo con il venditore di Ebbene, ha fatto il rimborso. Niente. Un rimborso, ma per la macchinetta cosa, come si chiama? La tosatrice per animali? È una lavata, vedi? Una lavata è far male, aspetta. Mamma mia, Indola ha presa questo affare. Oh, wow, wow, wow. Io vado a te mandare un fanculo, vedi, se ne andrà. Poi ho notato che il 10 deve essere internazionale, piace a tutti. Ci trovi gente FM, gente in banda laterale, tutti in occhi. Oh. Anche io ci sono, perché cosa vuoi? Adesso la... Dai, doppio room. E allora, buonasera. Eia, almeno siamo in locale noi, però. Vabbè, tutto questo è propagazione. Ehi. Comunque è vero che di questo apparato si usa ben poco, mi Claudio. Cioè io uso solo volume, squelch e canali. Cioè mic gain e RF gain devono stare a manetta. Rosmetro incorporato non serve a niente. Le bande non funzionano qua perché è omologato. AM siamo sempre in AM, fine coarse, quindi di conseguenza non si usa. Poi le levette lo stesso del Rosmetro non serve a niente. La NL lo tolgo e preferisco mettere squelch perché mi falsa le modulazioni. E i canali, la levetta canali alti e bassi non serve perché qua è omologato. Il canale 9 mentre mai serve, perché ormai non c'è più nessuno che ascolta. Sì, si usa il volume, ma quel c'è il canale, boh. Guai che tengo nel canale. Sì, già lo so. No, vabbè, io ci devo essere parecchietto. No, io qua perché ho sposto, ho provato un po' di tutto, già va bene. Anche lo strumentino è abbastanza preciso. Vediamo Natalino, io faccio sentire questa capsula che stai provando. La vorrete? Non ho ancora finito. Riprendi. Va bene. E che capsula sta mettendo Natalino? Quella verde? Non lo so, Marco ha detto che stava provando una capsula, non lo so. Diranno che va a dare Luca una, boh. Io ho messo Lumia di Ribedi per una capsula, come mi senti? Ma Lumia di Ribedi chi sa fa pigliare Romescio? Allora, siamo fatta un'orata, si fissa. Praticamente quante le decilire, così grado, come mi ascolti? E anche troppo amplificato, sì. Bisogna che te la tagli un po' con la tronchesina, però con la forbice non taglia quella. l'acqua, metto quella del mignolo, là, aspetta. Perché ho fatto un po' di buchi con la punta da trapo, con la pila più piccola, che sembra un ago. Ho fatto 3, 4, 5 buchettini, se non ne faccio altri, mi aspetta. Andiamo un altro paio, che almeno cola l'acqua, capito? Un giuccio. Stiamo facendo i cuccioli. Non so, vero, prendi. HI, avanti, Gianni, li prendi. Già stanno entrando senza chi che... Pronto? Fai un lutino a quello. Mi si mangiano una caramella. Ma la stai masticando o la stai succhiando? Masticando. Ecco, non succhiarla, Ascolta, tu trovi dei picci, vedi se aggatta i coglioni a camara pure in tafugata a bagno. Attenzione, sì, attento, che siamo attenti. Io, Natalie, faccio sentire questa capsula spaziale. Sono che sono troppo alto, io non più radio. Bene, fallo, sì. Via. Lasciamo così allora, andiamo a vedere. Fischiato, per forza, c'è volato un tipo di antenna, ragazzi, senza correttore, 3 metri di stazione a rivedere, ma qua non ci ho bruciato il dito. E beh, Marco lì, che si dice? Uscito sei oggi? No, proprio no, oggi niente. Anzi, dovrei uscire perché siamo senza latte e qualche piccola cosa, dai, vediamo. Non aggiungano, proprio, oggi ce le ho, mi dice Fradi oggi, ce le ho a terra. Abbiamo fatto un culo stamattina da solo, ma avevo già fatto, facendo lo spostamento, però l'ho sganciata dal tubo intera, l'ho spostata dall'altra parte, me l'ho appoggiata su 2 cavallette, tutta pulita. L'avevo messo a posto, già provata ieri. Oggi ho smontato la spirale, ho messo le cose nuove, tutte le morsettiere nuove, tutto. E poi me la sono portata a provetto 1, rapporto 1. Dal canale 1 al canale, forse anche al canale 80, io ho provato sino al 50. Dal canale 1 al canale 50 c'è 1, rapporto 1. L'ha portato a 1, proprio come dici tu, non si muove per niente, mentre ieri invece ne erano 5, ma perché dovevo fare questo lavoro della spirale, pulirla, farla, rimettere a posto. Sono sceso anziché a 7, l'ho messa a 6, a 6 scarso forse, ho trovato il punto d'incontro proprio su tutti i canali, è perfetta, no? Non varia niente, anche con l'amplificatore, niente, perfetto. Abbiamo fatto un culo che... Era solo a tirare su poi e stringere sotto, è un casino, sono 3 tubi, poi ho messo i tiranti nuovi, poi vado avanti, sono andato a scendere al Brico, sono andato in via 4 novembre a prendere il nylon per i tiranti, 20 metri, 15 euro. Marco, bravo, e io? Una informazione, te posso chiedere? Nara, ciao Mari. Ascolta, c'è un sabatone di 2500 litri d'acqua, ascolta, ma dove chi la posso mettere per depurare? Non ho capito, sei tutto impastato. Hai un sabatoio di 2500 litri? Anziché mettere la colla, la mucchina che ho terminata, quanta varicina posso mettere? Ogni 1000 litri ce ne vanno 100 centilitri. Ok, ce la faccio, grazie. Aspetta Marino. Dimmi Marco. Qua sei alto di segnale, ma come moduli hai picchi negativi. Forse sei troppo al limite. Controllo adesso, aspetta. Per lo meno qua li vedo. Claudio, li vedi tu nello smitter? Prova, Marì. Guarda questo passaggio, uno cosa prova. No, no, è positivo adesso, va bene, va bene. Capito, Marì? Ogni 1000 litri 100 centilitri. Ok, ok, grazie, ciao Claudio, ciao Marco, ciao Marco, ciao Marco. Ciao Marino! Marì, in pratica per farla breve, in 2500 litri, ok, ce ne metti 3 bicchieri da cucina, non di più, 3 bicchieri da cucina, che non siano grandi. Ok, aggiudicato, grazie, ciao. Ciao Marì, vai Natalia. Io volevo sapere, Marco, com'è la radio, che ce l'ho chiuso il microfono, dai. Che casino di propagazione, Natali, li sento sotto. Sì, telefoni, che è tutta... che rispetto a prima sembra che abbia perso. Boh. Forse come hai chiuso lo chassis mi, dal microfono. Come lo vuoi chiamare? Il guscio. Ho perso, boh. Prova, fai sentire a me, Natali. Guarda un po', uno, due, tre, prova. È più alta, Marco, di modulazione, però è più metallica. Sì, sembra i vecchi telefoni a cornetta, mi un po', anche di cattiva qualità, vabbè. Natalia, contentati, cioè lì miracoli non ne puoi fare. Infatti. E tu una capsula di vaccia qua, dai no. Ti viene agganciare, quando ho detto segnale, sganciato e agganciato, che si vuole. Il mio? Sì. Ma è tolto qua, Claudio, tutto tolto, perché io lo sai che non lascio nulla di compromettente. Vabbè, non fa niente, lascia. Vai, quando ce l'hai attaccato me lo dici, che voglio vedere se è sempre uguale il tuo segnale, capito? Perché ho spostato di 20 metri l'antenna. Gianni, riprendi tu Gianni, perché vado a bere, dai. Natali, per me la vedo prima la capsula, la vedo quella di prima, questa è metallica. Già, quanti watt stai usando tu invece? Cosa? Quanti watt stai usando? 10. Ok, tu invece sei salito di qualche puntino. Natali, prova tu. Guarda, 1, 2, 3. Anche tu di qualche puntino, ok, anche Giulio. Anche Luca, quasi tutti, vabbè, poi vedrò, lontananza non ho problemi, almeno 9.15, quindi non c'è problema, e da una punta all'altra, però mi sembra ancora bassa, ma cavolo già c'è, ma in questo momento non la giurano di bulimetro alla ribalta. Ah sì, ho preso esattamente solo 9 watt, 9 precisi. No, va bene, ti ho segnato, va bene, il mio dovrebbe essere sempre uguale a te, non so come, il tuo va bene, anzi sei salito di qualche punticino, dai, va bene. Natalia, è troppo metallica, hai migliorato sicuramente come intensità di voce, ma come qualità di voce hai peggiorato, non mi piaci, metti l'altra. Ma non avevo andato a fusare a comprarsi una capsula di quelle verdi, Natali? E vendo la fusata. Ce l'ho io, già te la do a voi al telefono, io ho messo quella del telefono.